Breaking Bad, da molti considerata la serie TV più bella di tutti i tempi. Jesse Pinkman è il protagonista giovane. Essendo ricaduto nella tossicodipendenza, Jesse è costretto a partecipare ad un gruppo di autoaiuto. Un giorno il moderatore del gruppo gli chiede: Jesse, se tu avessi tutti i soldi del mondo, che cosa vorresti fare? E così Jesse inizia a raccontare che quando era al liceo aveva deciso di partecipare ad un corso di lavori in legno perché l'insegnante, il signor Pike, era l'unico che gli era simpatico. In quel corso Jesse doveva creare una scatola in legno. Dopo un paio di giorni consegnò la scatola di legno al professore, il quale la guardò e gli disse: Jesse, non saresti proprio capace di fare qualcosa di meglio? Jesse racconta che in quel momento è scattato qualcosa dentro di lui e dice così: non lo so, sarà stato per come me l'ha detto, non mi ha mica detto che la scatola faceva schifo. E allora mi sono detto: sì, posso fare qualcosa di meglio. E così Jesse fa un altro cofanetto e poi un altro e un altro ancora, fino a riuscire a fare un cofanetto perfetto. Cos'è che ha fatto scattare in Jesse questa voglia di fare di meglio? Sicuramente non una critica sprezzante o un giudizio negativo da parte del professore, ma il fatto che il signor Pike con quelle parole gli avesse dimostrato fiducia. Quando riusciamo a comunicare fiducia, è come se dessimo un assegno in bianco e chi lo riceverà ne ricaverà sicuramente una grandissima somma. Qualcuno esprime la fiducia in questo modo: presumi negli altri le qualità che vorresti che avessero per fare in modo che arrivino a svilupparle davvero. Detto così sembra quasi impossibile che possa funzionare, ma in realtà avere un pensiero di questo tipo è qualcosa che cambia profondamente il nostro sguardo verso gli altri e soprattutto è capace di cambiare lo sguardo verso se stesso di chi si sente guardato in questo modo. Attraverso uno sguardo di questo tipo, il signor Pike è riuscito a fare scattare qualcosa nell'animo di Jesse. Quello della fiducia è un atteggiamento mentale che ci cambia molto profondamente perché è in un campo pieno di zolle, ci permette di vedere, immaginare già il campo di grano pronto per essere mietuto. Prova a pensare a una persona che credi che non stia sviluppando pienamente le sue capacità. Immagina che quella capacità già ce l'abbia e lascia che questo pensiero cambi la tua percezione. Lascia che la sfiducia ceda il passo al potere dell'amore, che è capace di vedere cose meravigliose in colui che ama.